America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Abbiamo archiviato la ricorrenza dell'11 settembre, si torna a business as usual e se dobbiamo pensare al ritorno alla normalità per questa settimana, ci sono tre cose che saltano agli occhi. La prima, ovviamente, la crisi, il dibattito sulla crisi, una nota positiva a Wall Street. Ieri c'è stato un po' di ripresa quando si è saputo che forse la Cina potrebbe comprare dei bond italiani, il Dow Jones è tornato in positivo. Grande volatilità, ma c'è anche la settimana della moda, molti designer italiani e infine un argomento interessante dal punto di vista del dibattito presidenziale. Ieri sera c'è stato un dibattito fra i candidati repubblicani e si parla di presidenza americana, in questo caso parliamo di presidenza Kennedy. Il 14, cioè domani, ci sarà la pubblicazione del libro di Jackie Kennedy. Abbiamo già avuto delle anticipazioni, le potete trovare sul nostro sito, ma visto che ci sono questi elementi, abbiamo pensato di fare due chiacchiere con un personaggio italiano che riassume tutte queste tre vicende che si intersecano in questa settimana, e cioè la moda, l'alta finanza, la relazione transatlantica e soprattutto la relazione coi Kennedy. Il senatore Mario D'Urso. Buongiorno Mario, vorrei cominciare a parlare di finanza, grande turbolenza, qual è la tua sensazione? La mia sensazione è che dal punto di vista delle borse europee e americane stiamo arrivando a dei minimi, ci saranno dei momenti turbolenti, il futuro non è dei più floridi. Certamente chi compra in questo momento non sbaglia, perché non sarà tra una settimana, non sarà tra un mese, ma le borse certamente riprenderanno. Evidentemente ci sta un momento di assestamento. I mercati più interessanti sono il Brasile, da cui provengo, saranno i mercati asiatici, e bisognerà ritrovare un equilibrio. Dopo la globalizzazione dovremo ritrovare un equilibrio mondiale. Ecco, c'è stato un discorso del presidente Barack Obama, un discorso di Bernanke. L'idea è che gli Stati Uniti intervengano di nuovo con una politica fiscale espansiva coordinata con una politica monetaria espansiva. Il 20, il 21 di settembre attendiamo le decisioni di Ben Bernanke. Qual è la tua impressione? Funzionerà questa manovra, questa doppia manovra degli Stati Uniti? Di nuovo, hai visto molta gente, molti investitori, molti finanzieri qui a New York. Qual è il pronostico? La mia impressione ancora non è definitiva ed è molto divisa. Io da un certo senso mi dispiace di dover essere pessimista sull'America. Ho vissuto la gloria dell'America, il dopoguerra europeo, eccetera. Certo, siamo in un momento di grande crisi, quindi affronteremo dei momenti molto difficili. E allora parliamo di cose più motivanti. La settimana della moda a New York, c'è stato un evento di cui sei stato protagonista, sei stato scelto, nominato da Vanity Fair come l'uomo più elegante del mondo di quest'anno, una classifica che Vanity Fair compila da 72 anni. E dunque, Mario, intanto che sensazione ti ha dato di essere stato nominato in questa classifica prestigiosissima internazionale come luogo più ragazzo? Sappiamo che tu lo eri comunque, però. Ma tutti mi dicono che mi sarei dovuto offendere, potevano pensarci un po' prima, ma insomma meglio tardi che mai. Però c'è stato un evento, c'è stata una colazione, c'è stato un bellissimo lunch al Monkey Bar offerto da Graydon Carter, e tu eri al tavolo con Graydon Carter, con Rinaldo Herrera e con una serie di grandi personalità, così per la consegna simbolica di questo premio. Che atmosfera c'era a questo lunch? Un po' più allegra di quella che c'era scritto prima sui mercati e sull'economia? Uno dei pochi elementi, diciamo, treanti dell'Italia e dell'America è il settore della moda. Qui si parla molto di quello che avviene in Italia in questo momento, nel bene o nel male. La gente mi chiede come mai il turismo italiano è così decaduto, eravamo i numeri uno nel mondo e siamo diventati i numeri sette. Bisogna anche noi in Italia rimboccarci le maniche e puntare su quello in cui noi siamo imbattibili. Veniamo al terzo punto, il rapporto transatlantico, questo legame tra la famiglia D'Urso, a partire da tuo padre, con i Kennedy. Fra qualche giorno uscirà un libro che ha fatto scalpore, perché i giornali, soprattutto quelli britannici, ne hanno parlato e si dice che ci siano molte rivelazioni piccanti. Per esempio, si dice che Jacqueline Kennedy stessa confessi in questo libro di aver avuto una relazione con l'avvocato Agnelli, con l'attore William Holden. Tu eri in quel periodo molto vicino a Jackie Kennedy, all'avvocato Agnelli, avete fatto un periodo di vacanza insieme in questo celebre momento in cui lei venne a Capri. Cosa possiamo anticipare? Quando Jacqueline Kennedy venne non a Capri, ma venne in Costiera Amalfitana, abitava a Ravello, veniva a fare i bagni giù dove abitiamo noi a Conca dei Marini, e andammo a Capri un paio di volte, ma fu una visita alla Costiera Amalfitana. Io, da quel che mi risulta nel libro che è stato messo insieme da Caroline Kennedy a seguito di una serie di interviste tra lo storico Schlesinger e la signora Kennedy, nel libro non appare né la cosa più grave, che è quello che dicono, che Johnson avrebbe organizzato l'assassinio di Kennedy, e questa storia di eventuali flirt. Negano soprattutto la signora Schlesinger e la famiglia Kennedy che mai Jacqueline Kennedy abbia fatto questa confessione. L'unica cosa che so di sicuro è che avrebbero potuto i Kennedy e gli Schlesinger fare una causa a chi ha tirato fuori, diciamo, questo pettegolezzo. Credo soprattutto la cosa più grave era l'episodio di Johnson più che l'episodio dell'avvocato. Al di là della diciamo ufficialità del libro, noi vogliamo anche la testimonianza di una persona che c'era, e dunque tu eri in questa casa dove tra l'altro Gianni Agnelli è stato ospite. Abbiamo visto, sono state testimonianze in cui lui andava e dormiva nella stessa casa della Kennedy, era ospite. Ecco, tu eri lì con loro, eri fisicamente, facevate le gite in barca. Ecco, allora, c'è stato o non c'è stato dal tuo punto di vista? Secondo me non credo, tutto può darsi, ma secondo me non credo, anche perché mi ricordo era quasi impossibile poter stare intimamente con Jacqueline, perché c'era un servizio di tale di sicurezza. Lei dormiva in una stanza in cui doveva tenere addirittura la porta aperta, fuori dalla porta c'era il famoso Captain Hill, che era il capo della sicurezza della signora Kennedy in quel momento, il Captain Hill che poi noi abbiamo visto sulla macchina a Dallas che si buttò per proteggere il presidente, era il numero uno della sicurezza, eccetera. Quindi credo che era anche impossibile, i bambini, le cose, di trovare un momento per poter, io mi sento in grado di negarlo. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter 24 America, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Direi che è il caso di rifugiarci nella nostalgia del passato. A un certo punto l'Italia negli anni 60, quando Jackie Kennedy andava a Conca dei Marini e a Ravello, le nostre canzoni impazzavano in America, e dunque facciamo un salto all'indietro, perché allora nel boom avevamo un peso forse diverso rispetto a quello che abbiamo oggi anche sul piano della musica. Pat Boone, versione inglese di Dimmi quando, la canzone che accompagnò le vacanze di Jackie. Pensate che nel 62 entrò nella classifica dei 100 brani più ascoltati d'America. Tell me quando, say it's me that you adore, and then darling tell me when, and then darling tell me when, dimmi quando, tell me when. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.